English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Lo scorso sabato vi abbiamo promesso una sorpresa, un ospite che noi amiamo particolarmente. Abbiamo riascoltato alcuni estratti di tutti i nostri incontri con Sarah Jessica Parker, ma questa volta rimaniamo in tema Sex and the City, perché qualche giorno fa a Taormina, lo confesso, ho avuto la fortuna di incontrare un attore che io ho amato moltissimo, uno dei protagonisti appunto di questa serie che ci manca molto, cioè Sex and the City. Chi l'ha vista si ricorderà perfettamente del bellissimo fidanzato di Samantha Jones. Ma che fine ha fatto Jason Lewis, l'attore? Ebbene, l'abbiamo incontrato proprio a Taormina. Chissà se in questi anni si è chiesto qual è stato il segreto di Sex and the City. Well, yeah, absolutely wondered. I've thought about it plenty. I think the secret to it is it's good writing. It's I think any story done well is a way for us as an audience to step outside of ourselves and share a common experience, and Sex and the City did that very well often. I just feel fortunate in the things that I do. I have a very on the ground mentality about my life and the opportunities that have come my way. So I think that, you know, for a person to look at the benefits that have come his way as a burden is kind of ingracious to the life you've led. Eccolo qui Jason Lewis, al quale non si poteva non chiedere qual è stato il segreto di Sex and the City, perché avreste dovuto vedere le folle di ragazze, ragazzine, bambine, mamme, nonne. Anche lui se l'è chiesto un po' perché tutto questo successo, Giulia. Sì, e usa anche questa forma verbale che ci dà l'idea che appunto non se l'è chiesto una volta sola, ma se l'è chiesto più volte in un arco di tempo. I have thought about it plenty. Plenty, abbondantemente. Non è proprio grammaticalmente perfetta come frase, però ci dà l'idea che appunto ci ha pensato molto, ecco, il senso è questo. E la risposta che si è dato, perché prima dice I absolutely wondered, to wonder vuol dire wonder è miracolo, ma to wonder come verbo è anche chiedersi come mai. Beh, secondo lui the secret to it is good writing, cioè alla fine erano delle buone sceneggiature. Secondo lui funzionano queste cose quando sono una way to step outside of ourselves, quindi fare un passo fuori da noi stessi, quindi uscire da noi stessi e share a common experience. Ecco, anche qui naturalmente probabilmente un po' ha ragione, perché spesso si parlava poi tra di noi magari di una puntata di Sex and the City. Però ci si chiede se un ruolo così importante possa essere un peso per un attore in fin dei conti. I feel fortunate. Fortunate è naturalmente fortunato, la parola più usata naturalmente in inglese per dire fortunato è lucky. E dice un'altra cosa, dice I look at the benefits that have come my way, quindi, o meglio, lui vede i benefits che gli sono arrivati come una grande opportunity, e poi fa un appunto a chi invece look at the benefits that have come this way as a burden, come un peso. Burden è un peso. Sex and the City, la serie è finita nel 2004, ci sono stati due film, lui ha partecipato ad altre serie come Brothers and Sisters, ma fondamentalmente adesso Jason Lewis cosa sta facendo? Right now I'm actually been working on my own stuff. I took some time to myself for personal reasons, kind of lived life for a little while, and I've been writing my butt off. The next thing I'm doing when I get home is a zombie dog horror film called All Dogs Go to Hell. Kind of a tongue-in-cheek thing that I wrote for fun, in a good place to practice a first filmmaking attempt. So, not just an actor? No, I really love storytelling. It's what I like about being an actor. It's not so much just being the actor, but being involved in telling a story. Eccolo qui, effettivamente si è preso una pausa per fare delle cose sue, sì, in fin dei conti. E anche qui, come giustamente hai detto tu, dal 2004 di tempo ne è passato, sì, ha avuto un ruolo in Brothers and Sisters, ma non certo una cosa che lo impegnava full time, e quindi usa questa espressione che ci dà l'idea che ha passato parecchio tempo a fare questa cosa. I have been working on my own stuff. Stuff vuol dire le mie cose, la mia roba, letteralmente, quindi ho lavorato. Non ci dice per quanto, ma appunto possiamo intuire che siano addirittura anni. E I took some time to myself for personal reason. Qui mancherebbe un off, probabilmente. I took some time off, cioè mi sono preso del tempo per me, to myself, for personal reasons, per ragioni personali. E qui è molto carino perché dice kind of live life for a little while, cioè ha fatto la persona normale. E nonostante sia un bellone, ve lo garantisco, di una bellezza abbacinante, però ha anche un po' di cervello, non è stupido il ragazzo e anzi vuole fare altro, non vuole fare solo l'attore. Sì, addirittura ci dice che he has been writing his butt off, che è un'espressione un po' volgare perché butt vuol dire lato B, però vuol dire ho lavorato come un pazzo alla scrittura, cioè si è messo proprio a scrivere delle sceneggiature. Una probabilmente diventerà un film, una sorta di horror movie, però lui dice tu Marta gli hai chiesto, quindi no, just an actor, quindi lei non vuole essere solo un attore, e lui dice no, infatti a me piace, I like storytelling, è proprio quello che gli piace del fatto di essere un attore, in being an actor, it's not just being an actor, non è proprio soltanto il fatto di essere un attore, but being involved in telling a story, cioè far parte di quel processo che è appunto raccontare una storia, raccontarla bene, come secondo lui in Sex and the City o magari in qualche film che gli auguriamo gli propongano presto. Tra le tante piccole esperienze che ha avuto dopo Sex and the City, pochi si ricordano che ne ha avuta una in Italia con una serie televisiva diretta da Alessandro Benvenuti, Moglie a pezzi, e quindi gli abbiamo chiesto un po' se ritornerebbe a lavorare in Italia, com'è stata questa esperienza per lui. Sentiamolo. I would, I'd love Italy. That's like asking me what my favorite color is, and it's not coming to my head right now. But I'll say that Alessandro, the director I worked with, I loved him. When I did the Moglie Pezzi here, he was fantastic. Benvenuti is my favorite. Right now, I'm not even going to try and speak Italian, but maybe after I drink a little bit more red wine, yeah, I'll start practicing some more. It's one of my favorite countries in the world. I've been very, very fortunate to travel and. Somebody asked a question earlier about and how we don't see each other anymore, and I think this is a country where you still see each other very well. Ecco qua, anche alla domanda c'era anche l'aspetto insomma del regista, con quale regista vorrebbe lavorare ancora, questo insomma non gli veniva tanto in mente, non gli venivano tanto in mente dei nomi dei registi italiani, infatti ha detto beh in questo momento è come se mi chiedessi qual è il mio colore preferito, non mi viene tanto in mente, insomma un modo carino per svicolare dalla domanda, però certo è che insomma l'Italia gli ha dato anche una piccola opportunità oltre che questo successo clamoroso. È divertente come appunto ricorda, dice Moglie a pezzi, perché per gli americani è quasi impossibile pronunciare GL, e poi però gli viene in mente il nome Benvenuti e dice he's my favorite, ma penso che sia l'unico regista italiano con cui ha lavorato, quindi sì, sicuramente il suo preferito, e probabilmente un pochino di italiano anche solo per osmosi lo ha imparato, però dice I'm not even gonna try to speak Italian, forse after I drink a little bit of more of red wine I start practicing some more. Practice è un verbo interessante perché vuol dire fare pratica, ma anche provare, provarci, e anche studio. Sì, chi di voi appunto è appassionato di serie TV come me e Marta, Private Practice, la serie TV, lo spin-off di Grey's Anatomy, in realtà è appunto Private Practice, vuol dire studio privato, quindi uno studio medico spesso, può anche essere un legal practice, uno studio legale, però è uno di quei verbi molto versatili, però lui lo usa invece, vorrebbe insomma, qualcuna di noi secondo me si presterebbe sicuramente aiutarlo a fare un po' di practice in Italian. Non diciamo niente, qualcuno mi chiederà se gli ho fatto bere poi quel vino, no, non l'ho fatto, anche se confesso che la tentazione, ma comunque concludiamo il nostro incontro con Jason Lewis. Lui alla fine ha fatto una notazione insomma su quello che pensa dell'Italia, abbastanza comune questo pensiero tra gli americani, pensano che sia molto, forse molto più ingenua, sì, e umana di quello che in realtà è. Forse perché vabbè, loro sono sicuramente un paese molto grande, pensate che la sola California è grande come l'Italia, e forse con i social network c'è questo problema che ci si incontra su internet e ci si incontra ancora meno nella realtà, quindi dice ieri mi avete chiesto how we don't see each other anymore, come non ci vediamo più di persona, e lui dice beh dell'Italia che this is a country where you still see each other, dove ancora vi incontrate di persona, sicuramente un pochino più vero che negli Stati Uniti, però insomma anche da noi la sfera virtuale sta un po' prendendo forse il sopravvento sul mondo reale. Giulia, non so tu, ma io intanto lo aspetto questo film di Jason Lewis. Sono curiosa di vedere questo film che sta scrivendo. Dogs Go to Hell, dovrebbe chiamarsi. Chissà come sarà, non lo so. Io comunque gli lascio il beneficio del dubbio. Anch'io. E se esce questo film lo andrò a vedere. Salutiamo il fantastico Jason Lewis e Smith Gerard di Sex and the City. Lo abbiamo amato moltissimo. Si conclude qui la nostra puntata di English 24. Vi ricordo l'appuntamento con la rivista in edicola. Ringrazio Paolo Corleoni in regia. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.